L'emergenza epidemiologica nella quale viviamo continua a non avere una soluzione apparente nella situazione italiana. Non sappiamo che ne sarà di noi, non sappiamo neanche esattamente come le cose sono gestite. Continuiamo a essere uno dei paesi più infetti. Cosa è successo? Beh, dal punto di vista tecnico, sanitario, epidemiologico è molto difficile dirlo. Nessuno può spacciarsi per esperto di virus. Ma certamente abbiamo dei dati consolidati dal tempo, seppure vaghi, perché appunto richiederebbero competenze tecniche particolarmente acute per essere valutati, ma sappiamo che la Germania è stata contaminata come l'Italia, ma la Germania riesce a continuare a lavorare e ha un regime meno severo di isolamento dei suoi cittadini, ha avuto meno morti. Com'è possibile? Beh, un dato che disvela questa emergenza è la crisi del sistema sanitario, così come è venuto formandosi in alcuni paesi e in Italia in particolare. Le privatizzazioni, la riduzione della spesa sanitaria, la sua aziendalizzazione hanno prodotto tanti disastri, ma il principale è quello dell'indebolimento del sistema territoriale, che è quello che invece ha salvato i paesi che sono usciti meglio o che stanno uscendo meglio da questa emergenza. La Germania ha un buon sistema territoriale. La Corea, mutatis mutandis, ha un buon sistema territoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che esiste uno spazio tra il momento in cui il cittadino sta male e si rivolge al medico di base e il momento in cui è molto grave e finisce in terapia intensiva. Esiste uno spazio molto ampio nel quale si deve intervenire e quello nel quale è proficuo intervenire senza intasare il sistema ospedaliero. Questo, che era uno dei valori della riforma sanitaria italiana del 1978, è stato progressivamente sgretolato. Seconda considerazione. Continuiamo ad essere in una situazione di democrazia sospesa per due motivi. Primo, viviamo su decreti che riducono le libertà personali, che impoveriscono il paese, che bloccano il lavoro, ma che non passano mai a un vaglio serio del Parlamento. Certo, il Parlamento si è riunito un paio di volte, con che risultati? Con quale grande dibattito? Ci sono poteri straordinari nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri che sono usati non in modo equilibrato. Tra questi, questo continuo rivolgersi alla nazione con grandi discorsi, ma non siamo in un regime plebiscitario sudamericano. Questo non ha niente a che fare con la democrazia. Siamo di fronte a discorsi retorici. Il penultimo discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri diceva: ancora uno sforzo, poi avremo una primavera meravigliosa. Ma questo è lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri che, quando governava con la Lega, diceva, e con 5 Stelle, diceva che il 2019 sarebbe stato un anno meraviglioso di grandissimo rilancio economico? Ecco, dall'altra parte la crisi della democrazia avviene nei fatti. I partiti non fanno ciò che potrebbero e avrebbero lo spazio per fare. Perché i partiti non si riuniscono? Perché i partiti non discutono di politica del dopo, non discutono della ripresa economica? Si parla di passare alla fase 2, ma nessuno riflette sulla fase 2, o meglio, c'è chi ci riflette. Il governo, in termini puramente opportunistici, non si può continuare a tenere la nazione bloccata, quindi, indipendentemente dall'andamento effettivo della epidemia, annunciano una fase 2, che forse comincerà gradualmente il 4 maggio, forse più avanti, non sanno bene cosa dire. Dall'altra parte c'è un altro grande soggetto che sa benissimo cosa fare. È la Confindustria, sono gli imprenditori. Il nuovo presidente di Confindustria, Bonomi, appena nominato, non era ancora stata ratificata la sua nomina, che ha fatto un discorso molto pesante, molto importante, in cui chiedeva la ripresa economica, in cui sapeva come riprendere l'economia e in cui metteva sul tavolo alcuni punti fermi: attacco ai sindacati e incapacità del governo. Gli imprenditori sì. Dunque una nuova proposta forte, vigorosa, di quel liberismo economico nel quale le imprese devono essere libere dai vincoli dello Stato, libere da ogni vincolo, perché solo la libertà del mercato e la libertà dell'impresa possono produrre ricchezza. Ma questo è pericolosissimo. È pericolosissimo non soltanto dal punto di vista strettamente politico, liberismo o non liberismo, controllo dell'economia da parte della cosa pubblica, contro l'imprenditoria selvaggia, eccetera, ma anche dal punto di vista del fatto che non non possono essere lasciate le imprese sole a stabilire che cosa fare dopo, in particolare di fronte a una crisi globale che ha dimostrato che da questa situazione si può uscire soltanto con un governo globale e dunque non lasciando, come che so, negli anni 50 o negli anni 60 del secolo scorso, la libertà all'impresa, che poi però quando aveva bisogno si rivolgeva allo Stato. Basti pensare alla storia del rapporto tra la più grande industria italiana di allora, la Fiat, e il governo. Di fronte a questo i sindacati hanno risposto in modo equilibrato e deciso, ma non possono bastare, devono avere una forte sponda politica e questa può essere data soltanto dalla ripresa del dibattito democratico all'interno dei partiti e tra partiti e dalla ripresa di un'iniziativa pubblica diffusa nel Paese.